известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The issues that you'll be discussing are issues that, as you know, are near and dear to my heart. I personally, as Donna described, know the challenges of leading a busy life at work and at home. Sono giorni di grande esposizione, di grande presenza, anche di un certo attivismo per Michelle Obama, la First Lady della nuova Casa Bianca 2009. Michelle è stata, ne abbiamo anche parlato ieri, è stata a New York, ha partecipato a un incontro alle Nazioni Unite, ha ricevuto il premio dedicato a coloro che fanno parte di questo elenco, no, stilato dal grande settimanale Time, delle 100 personalità che contano nel mondo. Poi è tornata a Washington in una situazione, diciamo, più dimessa, più locale, nella sala di un albergo, Mayflower Hotel di Washington. Ha dato vita però a un incontro assai interessante, per come ha offerto un dato, come dire, di partecipazione un po' fuori dal protocollo, e ha provato a raccontare, dopo questi primi 3 mesi qualcosa di esperienza alla Casa Bianca, cosa voglia dire, no? Poi per una giovane famiglia, una famiglia piuttosto normale, padre, madre, 2 figli, un padre in carriera, una madre inizialmente in carriera che poi lascia la carriera per far posto alle ambizioni del marito, e però per coprire, per occuparsi, no, del versante domestico, per tenere insieme la famiglia. Poi in parole povere ha raccontato tutto ciò con un discorso i cui risvolti poi hanno veramente preso, come dire, una piega informale, e per questo sono diventati poi più interessanti, anche più fuori dagli schemi di quanto accada di norma. Una volta tanto, va detto, Michelle aveva sbagliato tragicamente il vestito, alla faccia della, no, donna più meglio vestita d'America, la giovane signora che ha fatto cambiare, no, i canoni dello stile americano. Stavolta era un disastro, se lo guardate su CNN o sui vari siti televisivi, non so, probabilmente aveva fatto la scelta sbagliata nell'armadio, indossa un vestito con degli enormi fiori, una cintura messa nel posto più sbagliato, delle strane finiture nere. Ma a prescindere da queste cose vacue e anche forse un po' sciocche, poi quello che ha detto è stato molto divertente e anche molto interessante. Divertente nella parte in cui ha spiegato che è perfettamente consapevole adesso, nella sua nuova situazione di First Lady, di vivere in una situazione santificata, benedetta. Di poter contare su ciò sul quale gran parte delle famiglie americane e di tutto il mondo non possono certo contare, per esempio avere un capo dello staff, no? A ciascuno di noi, sicuramente a tante delle nostre signore, piacerebbe avere un capo dello staff, un assistente personale e poi uno staff vero e proprio. Questo non è dato, mentre è dato a una First Lady, e ha detto lo so, guardando il suo pubblico, lo so che anche a voi piacerebbe avere uno staff di questo genere, vi garantisco che è piacevolissimo. Poi però si è messa a parlare di argomenti seri, ovvero della strana, no, convergenza nella vita del XXI secolo tra lavoro e famiglia, della sovrapposizione, in certi casi anche dell'opposizione fra questi due temi, che può generare addirittura conflitti all'interno della famiglia, frizioni tra mariti e mogli, addirittura una forma di competitività, sicuramente delle insoddisfazioni, magari anche delle frustrazioni piuttosto accentuate. Ha raccontato di essere, lei si è autodefinita una 100, vediamo se riesco a dirlo, una 120%ista. La 120%ista sarebbe la persona che quando fa le cose non solo le vuol fare al 100%, ma le vuol fare al 120%. E ha detto: io da 120%ista, quando ho capito che la famiglia, 2 figlie, un marito in carriera, presto non mi avrebbero più permesso di fare la madre nel modo migliore come avrei voluto farlo, non mi avrebbero permesso di continuare la mia carriera come avrei voluto fare, non mi avrebbero soprattutto permesso di stare in pace con la mia coscienza, ho cominciato a fare dei calcoli, a valutare e ho riscoperto quello che era avvenuto tra mio padre e mia madre. Tra mio padre e mia madre, in una famiglia modesta, con degli introiti economici sicuramente assai limitati, era successo che mio padre, che poi alla fine lavorava in una catena di montaggio, guadagnava abbastanza, sebbene abbastanza ma a sufficienza, appena abbastanza, però per permettere a mia madre di non andare a lavorare. Questo è sempre stato un suo grande orgoglio e mia madre, ha detto Michelle, a sua volta è sempre stata molto orgogliosa di poter godere questa opportunità di non andare a lavorare e in cambio poter offrire tutto se stessa, o buona parte di se stessa, alla crescita dei figli, alla edificazione della migliore famiglia possibile. E in un certo senso l'ha chiamata, e questa è la cosa su cui poi volevamo arrivare a spendere qualche parola, l'ha chiamata una politica dei tagli, no? Una politica dei tagli, una volta tanto non fiscali, forse neanche familiari, forse una politica dei tagli delle ambizioni, e questo a inizio XXI secolo è un discorso che ci è piaciuto sentir fare anche da una personalità così in vista come la First Lady americana, una politica dei tagli delle ambizioni, quindi vivere facendo dei tagli per permettere però che la armonia, la fluidità all'interno di un nucleo familiare continui a regnare e, come dire, ci sia una complementarietà. Non tutti riusciranno a fare tutto, ma alla fine le cose funzioneranno, il giocattolo non si romperà, appunto ambizioni e frustrazioni non avranno la meglio su quella che essenzialmente deve essere una costruzione. Allora tutto questo è un discorso che forse una volta tanto ha poco a che vedere, no? Con altri tagli di cui adesso magari accenneremo qualcosa, perché nel frattempo anche suo marito tagliava e se tagliava, ma che ci è piaciuto sentirle fare. Allora, ecco i tagli 2010 per Barack Obama. Lui a sua volta ha tagliato parecchie cose. Per esempio ha tagliato un americano a Parigi. Per risparmiare, Obama ha deciso di fare a meno il rappresentante del Dipartimento dell'Educazione presso l'UNESCO, l'organizzazione dell'ONU con sede a Parigi, che si occupa di istruzione e cultura. In tutti i risparmi che ha prospettato, alla fine è riuscito a mettere insieme 17 miliardi di dollari da risparmiabili per l'esercizio americano 2010, quello che scatterà, che entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre 2009. Non è poco, 17 miliardi di dollari. Il risparmio supera di poco l'1% del deficit 2010. I più critici parlano di dichiarazioni d'effetto, dicono che in realtà l'UNESCO alla Casa Bianca non è mai piaciuta molto, che il salvataggio della General Motors è costato finora già mezzo miliardo di dollari. Insomma, ci sono anche delle critiche, ma c'è anche una soddisfazione e c'è anche un interesse per questa piega che sta prendendo Obama, un po', come dire, non da superstar in questo caso, ma un po' da artigianello, no? Da quello che si mette lì con il piccolo bisturi e comincia a lavorare sul budget, anche su cose magari non molto visibili, ma che poi messe tutte insieme portano a casa dei vantaggi, dei risparmi. Ha parlato di cancellazione di programmi obsoleti come quello di radionavigazione, ormai sostituito dal GPS, la rinuncia ad un nuovo motore per il caccia Joint Strike Fighter, alla fine delle sovvenzioni per le compagnie assicurative attraverso il Medicare, il programma assistenziale per gli anziani. E dopo aver ricordato i sacrifici che gli americani stanno facendo a causa della crisi, il presidente ha spiegato che Washington è pronta ad agire con lo stesso senso di responsabilità, appunto diminuendo le spese laddove sia possibile. Del resto anche ci mette del suo anche la Camera, se è vero che a sua volta ha deciso di risparmiare 50 milioni necessari che Obama le aveva chiesto per spostare 241 detenuti da Guantanamo in un altro centro di massima sicurezza. La questione è semplicemente aperta, naturalmente la chiusura di Guantanamo andrà avanti, ma, come dire, le manovre in grande stile per ora sono state negate dalla Camera, che ha detto risparmi tu, risparmiamo anche noi, e soprattutto non vogliamo correre il rischio di mettere in circolazione quelli che potrebbero ancora essere terroristi, anche se la Casa Bianca insiste a dire per bocca del ministro Eric Holder che non tutti questi 241 sono certamente dei terroristi. Quindi politica dei tagli alla Casa Bianca, politica dei tagli alla Camera, ma poi, come abbiamo detto in apertura, quello che ci è piaciuto di più è la politica dei tagli che Michelle Obama, questa first lady assai promettente, ha raccontato, una politica dei tagli intima, no? Minuscola, molto empatica, che può avvenere, no? nelle quattro stanze bagno e cucina, oppure semplicemente attorno al tavolo di cucina di una casa qualsiasi. It's a blue, bright blue Saturday. Si avvicina il weekend a New York, sicuramente, no? I forzati del lavoro, no? Quelli che chiamano i protagonisti la corsa del topo newyorkese, magari si stanno preparando per evadere la città, una città dove ne capitano di tutti i colori, ne capitano di magnifiche, ne è capitata una poco fa che ci piace moltissimo, è la evasione di Molly la mucca. Molly la mucca l'hanno portata al macello, nella zona del Meat Packet a New York, verso le strade alte, nella parte west della città, però evidentemente ha trovato il pertugio buono, il guardiano distratto che si stava mangiando un hot dog e, come si dice, se n'è candidamente andata. Ha percorso, evaso dalla Musa Halal, quindi macellazione secondo la tradizione ebraica, quindi per sgozzamento, insomma. Molly ha detto: sai che ti dico, a me oggi di essere sgozzata non mi va tanto, e se n'è andata. Ha percorso la bellezza di 1,5 km, sicuramente su una avenue, chissà dove sarà arrivata. Alla fine l'hanno catturata. Nel frattempo, naturalmente, i newyorkesi, che vanno letteralmente pazzi per storie di questo genere, l'avevano già adottata a loro volta, e pare, dice l'agenzia, che potrebbe, ma non è sicuro, esserci un lieto fine, insomma un premio per l'intraprendenza di Molly. Potrebbe essere il trasferimento in un allevamento dove vivere fino alla fine dei suoi giorni, sarebbe bello. Però pare che ci sia la possibilità che i proprietari reclamino e dicano: ma quale ritiro, buon ritiro per mucche, vai a farti sgozzare. E New York a quel punto piangerebbe, oppure ci fanno un TV movie, secondo me, un Babe 2, però questa volta legato alle mucche. Beh, viva Molly, dai. Express yourself. Qui invece abbiamo un problema, cari ascoltatori. Facebook non ci tradisce, ci lascia 6-7 ore in attesa di una mail, tempi da... Forse da... ci si è messo di traverso il diavolo, chi lo sa, visto da piccioni, il tema di oggi. Sì, forse il tema, sono piccioni viaggiatori, ma di fatto, insomma, sono arrivate con 5-6 ore di ritardo le mail spedite, per carità, poi siamo tutti ospiti, ce ne rendiamo conto, però così i focus, come dire, zoppicano e poi voi magari vi arrabbiate, ma perché li mandate tardi, vi svegliate tardi? No, è che siamo tutti nelle mani di non abbiamo mai capito chi poi. Comunque, la questione naturalmente che abbiamo messo in gioco oggi, se io poi trovassi i miei bei fogliettini sarebbe anche bellissimo, riguardava la visita papale. Aspetta, vai. Eccoli. E ecco, ho avuto il testo di tutto ciò, delle tutte sciocchezze che avevamo scritto. Comunque, insomma, visita di Benedetto XVI a Gerusalemme, in Israele, attualmente in Giordania, dove è atterrato alla 1:30 ora italiana. Tanti problemi che ruotano attorno a questo difficile viaggio. Il patriarca latino di Gerusalemme, Fuad Tual, ha detto: sono tutti pronti ad accaparrarsi la parte migliore della torta che questa visita rappresenta. Pensate un po', vi abbiamo chiesto a vostro parere, insomma, come la vedete, che cosa intravedete in sostanza sulla scaletta del jet che porta Ratzinger da quelle parti. È davvero un pellegrino di pace, solo un pellegrino di pace come dice lui, o è anche e soprattutto un potente uomo di dottrina e forse addirittura di politica, no? Con ambizioni ben diverse. E allora, tanto per gradire, c'è Dragos che ci ride in faccia, scrive: ma che pellegrino di pace, il Vaticano è ormai una multinazionale, il Papa va là per affari, mica per la pace. Per affari addirittura. Per affari religiosi, adesso non so, non entra nello specifico Dragos. Beh, però vi preannunciamo che c'è Filippo e Giacomo, adesso sta girando qui, eccolo qua, è attaccato alla porta. Caro Filippo, va per affari, abbiamo saputo. Poi ci spiegherà quali affari, appunto, Filippo. Però diciamo che il tenore degli ascoltatori è su questa linea, non dà molta simpatia, insomma, questo viaggio in Israele di Benedetto XVI. Però, per esempio, tra i pochi c'è Adlai, che è poetico, addirittura, che dice: gli uomini armati di fede sono migliori di quelli armati di vere armi. Pur tuttavia mi sforzo tantissimo e non riesco ad accettare che la religione svolga un ruolo politico nelle questioni internazionali. Questo primo giro lo chiudo con Matteo, che dice: le posizioni teologiche di questo Papa non prevedono alcuna conciliazione con l'ebraismo o l'islam. Lo spiega anche lui, cioè Benedetto XVI, che va a portare sostegno soltanto ai cristiani locali. Questa è la chiave del discorso, su cui grosso. Poi chiameremo in casa i nostri esperti, insomma. Ma se va veramente lì a fare soltanto quello, poteva restare a casa sua. Carlo dice: il Papa non è un mediatore e nemmeno saprebbe esserlo, ma che brutta figura fanno le religioni monoteiste, ovvero le uniche accettabili da noi contemporanei, muri divisori, non solo quello del pianto, più che piattaforme su cui costruire un senso migliore dell'umano, e questa ci piace. Sibilla dice: il Papa sta cercando di raschiare il barile, ma non si rende conto che il suo impero ormai è tramontato. Siamo in ambito molto temporale, non so come dire. Se la Chiesa non si dà una rimodernata, è destinata a chiudere battente. Diamo una bella rimodernata. No, facciamo così. A Roma si dice: diamo una romanella. Infine Giovanni scrive: sono fiducioso che la visita del Papa in Terra Santa sia un augurio di speranza e di pace in quella terra martoriata. Oh, ecumenico. Allora, in attesa poi dei commenti di Filippo, di Giacomo, allora, molti battono su questo punto della potenza del Vaticano, del ruolo politico, appunto terreno più che spirituale della Chiesa. Per esempio Livio dice: secondo me è un potente uomo di dottrina, Papa Ratzinger, con ambizioni più ampie, non credo vada in Terra Santa a fare catechismo. Alessandro: il Vaticano non è più uno stato pellegrino di pace, ma un vero e proprio partito politico per se stesso. E poi, per finire, un aficionato, Mukeba: Benedetto XVI è un potente pellegrino di pace, la sua visita è un fatto importante, servirà, almeno spero, a superare le incomprensioni del recente passato con Israele e a rinvigorire i legami con il mondo islamico. questo è il meglio ottenibile. Margherita dice: nessun papa ha mai diviso le questioni spirituali da quelle politiche. Benedetto XVI è teologo troppo accorto per sprecare un'occasione di questo genere. Manuel: entrambi i ruoli appartengono al pontefice, che è guida spirituale ai cattolici e capo di Stato del Vaticano. Ed infine Flavio, che dice: Benedetto XVI è un restauratore e come tale non perde occasione per ribadire un potere che abbia qualcosa a che vedere con gli insegnamenti che si dicono di Cristo è tutt'altra faccenda. Ne continuiamo a parlare tra poco per discutere insieme ai nostri esperti il significato, i tanti significati di questo viaggio. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Prima di tornare allo specifico, mi scuso per carità, così preso, no, dalla passione di raccontare la storia di Molly, la mucca evasa verso la libertà, mi sono confuso, la macellazione a cui Molly, tanto per stare allegri, era destinata, Halal, la macellazione islamica, non Kasher, la macellazione ebraica, poi diciamo che alla fine della fiera più o meno, insomma, la sostanza era sempre la stessa, ma insomma... sia dato a Molly, anzi non sia dato a Molly quello a cui era destinato. Oh, ciao Filippo e Giacomo al mio fianco in studio, non ha bisogno di presentazione, sacerdote, giornalista in partenza per, no, sulle tracce di Benedetto XVI che a Gerusalemme comincerai a, no, a seguire, a raccontare. Sì, seguirò la parte israeliana. Oh, e insieme così discutiamo, c'è anche molta vivacità negli sms 349-238-6666, in tanti scrivono attorno a questo evento che come dire, minaccia in senso buono di essere importante, soprattutto nei giorni dell'attraversamento di Israele da parte di Benedetto XVI. Time ha fatto una scaletta, il settimanale americano, una scaletta dei 5 compiti a cui Benedetto XVI dovrebbe in un certo senso adempiere nel corso di questo suo viaggio. Li elenco rapidamente: mettere riparo, far ritornare buona la sua immagine, stendere un ponte tra le civiltà, sembra semplice, rassicurare gli ebrei, sostenere e sospingere la pace in Medio Oriente, e l'ultima, ma non l'ultima, non dimenticarsi dei cristiani, dice Time. Poi bisognerebbe anche raccontare esattamente chi è Time, cosa c'è alle spalle di Time, però io voglio partire invece da un numero semplice: 28 avrebbe contato un giornalista americano, 28 addirittura, Filippo, saranno i discorsi, fra grandi discorsi e piccoli pronunciamenti, che questo Papa nel giro di 5-6 giorni va a pronunciare da quelle parti. Quindi parla tanto, probabilmente parla tanto e parla di tante cose, perché sicuramente non saranno l'un l'altro, no, la ripetizione del precedente. Quindi è anche un grande viaggio, come dire, di comunicazione, no? Col mondo che guarda, il mondo che anche guarda con attenzione, penso gli israeliani che staranno a scrutinare poi, soprattutto in certe occasioni, parola per parola, addirittura congiunzione per congiunzione, quello che viene detto, ma tante cose dobbiamo attenderci che Benedetto dica. Beh, parliamoci chiaro. Ratzinger ha sempre detto, quando era cardinale, di viaggiare pochissimo perché teme l'aereo. Ecco. Inoltre ha avuto nel 97 un problema cardiocircolatorio grave, per cui la parte sinistra del suo corpo, vediamo ancora tracce sulla ancora adesso, quella che sembra immobile è così perché ha avuto dei problemi di salute che gli sconsigliano anche fatiche di questo genere. In Terra Santa ce l'hanno. Però diciamo quando uno insomma, Terra Santa... sale al soglio papale, no? Queste cose ma le non sa, è, ma non è assolutamente non è assolutamente detto, perché poi il cattolicesimo è come la meraviglia di dire, se scrive una giornalista di Avvenire e dice caspiterina a qualcuno, dice i vescovi, ma i cattolici sono 1.200.000.000 di persone, i vescovi saranno 4.000, il papa uno solo, cioè per parlare, per pensare, i cattolici hanno mica bisogno di avere una tonaca in testa. Quindi in realtà in Israele e in Giordania il Papa ce l'hanno portato con molte insistenze, lo ha spiegato Lieberman. Ce l'hanno portato, stai dicendo delle cose, sì, ce l'hanno portato con molta insistenza, perché come ha spiegato Lieberman, che non è un cattolico e tra gli ebrei appartiene a quel 20% di ebrei osservanti, certo, che in Israele non sono certamente sospettabili di avere molte simpatie per... bisognerebbe spiegare cosa vuol dire osservanti, non vuol dire solo osservanti, per i cattolici, per i cattolici in genere, per i cristiani in specie, dicendo che il modello di dialogo interreligioso proposto dalla Chiesa Cattolica potrebbe essere un modello di dialogo tra ebrei e musulmani. La frase del Times che tu hai citato, è un momento di costruire ponti, sono le parole con cui il presidente Peres saluta, ha annunciato il viaggio del Papa in Israele. Bisogna costruire ponti e Benedetto XVI viene ad aiutarci in questo. Poi bisogna ricordare che se si supera un pochettino l'anticlericalismo di certe opinioni, dentro lo spazio della Santa Sede interagiscono 179 entità statali, l'ONU ne ha 186. È probabile che a Roma, e poi tutti sanno che a Roma tutti vengono a discutere senza doversi allineare con le ragioni della politica di riferimento, della nazione di riferimento, come avviene all'ONU. Per cui cosa vuol dire questo? Vuol dire che se per esempio viene Vanuatu ad esprimere dei problemi che riguardano l'esercizio dei diritti, la rappresentanza politica, questa specie di ONU che il Vaticano ha intorno, permette una discussione che non sono, diciamo così, per esempio, se pensiamo che la Commissione per i diritti umani dell'ONU è presieduta attualmente dal Sudan, forse magari di certe cose se ne discute più. Ed è questo forum che la Chiesa tiene aperto a livello globale che si sposta con il Papa. Oh, ci ha raggiunto in ascolto e pronto a parlare con chi ci ascolta anche Maria Grazia Nardu, l'avete sentita molte volte nei nostri microfoni, cercatrice di storia internazionale a Firenze, insegna storia di Israele, ci darà anche una mano e qualche parere intorno a questo evento. Buon pomeriggio Maria Grazia. Buon pomeriggio. Tra l'altro, ecco, per tirarti subito dentro la discussione, ci sarà presto, insomma, non appena arrivato in Israele, un episodio, come dire, di questi un po' equilibristici sui quali mi sembra di capire che Filippo abbia un certo slancio, come dire, ma che non state troppo lì con la lente ingrandimento, però c'è questa visita, no, a Yad Vashem, al memoriale dell'Olocausto, dove Benedetto XVI andrà perché andrà, e però poi dove non pare non entrerà per non avvicinarsi alla foto dove c'è Papa Pio XII che ha una didascalia sotto molto come dire, colpevolizzante. Ecco, dammi un punto di vista su questo, già questo snodo così critico e questo muoversi un po' in una cristalleria, o sbaglio? Yad Vashem è una cristalleria ed è anche un luogo molto grande, per cui sono curiosa di vedere dove esattamente farà il discorso. Immagino che entrerà nella sala del ricordo con la famosissima fiamma perenne, però non visiterà il museo, non solo per la questione di quella foto così discussa, ma anche perché il museo è enorme, con tanti luoghi molto belli e molto interessanti. Il momento però più importante della visita, oltre al fatto che ci metterà a piede come altri prima di lui, sarà il discorso. Il discorso sarà veramente un momento rivelatore e su questo sono già arrivate al Papa solleciti anche... Certo. Oggi una lettera del ministro degli affari religiosi israeliano che lo invita nel discorso a smentire, a negare ogni legame, anche il più immaginario, con chi nega l'Olocausto. E quindi da ogni parola e anche da ogni intonazione o gesto del Papa, gli israeliani di ogni tipo trarranno le loro conclusioni. Beh, ma certamente non credo, Filippo, che il Papa nell'ambito del suo discorso possa, no, smentire. Allora, c'è una congruità. No, allora ricordiamo i fatti. Durante il Concilio Vaticano II, il Concilio si incartò nella redazione del documento sulla libertà religiosa, il documento che riguarda anche gli ebrei, soprattutto gli ebrei, la nostra etate. E il fatto fu sbloccato perché il Cardinal Frings dette tutto il fascicolo a un giovane teologo chiamato Cardinal Ratzinger, il quale propose una redazione del documento che poi fu votato, credo è stato quello più discusso, 70 votarono contro, 2000 e passa votarono a favore. Da allora ogni documento che nella Chiesa ha affrontato il problema dell'antisemitismo e quindi la condanna dell'antisemitismo è stato o redatto da Ratzinger o approvato da Ratzinger. La Chiesa ha già un documento specifico sulla materia, che è il documento del 97, noi ricordiamo. Tu stai volando altissimo, dove viene detto, però qui c'è la questione. No, dove viene detto quello che è stato ripetuto, che qualunque battezzato dalla Chiesa Cattolica che neghi l'Olocausto non può essere considerato cattolico, punto. Certo. Però qui credo sia semplicemente, anche lo stesso ministro israeliano penso faccia riferimento alla faccenda della scomunica tolta ai quattro vescovi. Sì, se noi discutessimo sui rabbini. Di quello si parla, ma non d'altro. E se noi discutessimo sui rabbini che istituiscono rabbine donne, ce ne sta uno pure a Milano, oppure su quello che fanno, o affermano certe correnti ultraortodosse israeliane, dove addirittura viene negato il titolo di umano a quelli che non sono Ben Avram, figli di Abramo. Cioè, sentiamo Maria Grazia, pensi, ecco, sulla base di tua esperienza, è difficile, no, che avvenga, come dire, un così esplicito ritorno, come dice anche un po' Filippo, su tematiche che credo che il Pontefice ritenga forse anche a buon diritto risolte, no? E questo credo potrebbe innervosire comunque una certa critica israeliana, penso. Questo è un Papa che parte in salita, è un Papa tedesco con sciagurate foto che lo ritraggono giovanissimo mentre faceva parte della Hitlerjugend, peraltro obbligatoria per tutti i ragazzini tedeschi, ha avuto qualche infortunio verbale in discorsi vari, non è quel grande fascinatore che era stato Papa Wojtyła, questo è un Papa che va veramente in salita in Israele. Va bene, ci risentiamo tra un poco, un po' di musica, al traffico e torniamo. I go mental every time. Filippo Di Giacomo, Maria Grazia Nardu, stiamo commentando, presentando, introducendo, discutendo attorno al viaggio del Papa in Israele, ora in Giordania, appena preso le mosse, atterrato in Giordania all'1:30. Stavamo parlando della possibile partenza in salita di Benedetto XVI in Israele. Un ascoltatore fa la domanda, che in un certo senso echeggia quanto appena detto qui in trasmissione, e domanda: Filippo, ma l'uniforme della gioventù italiana, a proposito di partenza in salita, l'ha portata Benedetto XVI? No, la foto che abbiamo è con l'uniforme della difesa territoriale contraerea, perché il padre, che era fortemente antinazista, quando Hitler andò al potere, prima chiese due trasferimenti sempre in località, diciamo, marginali della Baviera, e poi si mise in pensione anticipata e si ritirò ancora in un piccolissimo paese, proprio per evitare ai figli di frequentare la Hitlerjugend. E ricordiamo che nella biografia Ratzinger ricorda che una sua cugina fu gasata dai nazisti perché down, e questo era considerato, diciamo così, qualcosa di molto doloroso nella famiglia. Maria Grazia, quindi c'è, come dire, una geografia, no, all'interno di Israele, che è contro questo viaggio. Ce la puoi descrivere, o è semplicemente un'area ben definita, circoscritta, addirittura un'etichetta? È una geografia in parte circoscritta agli elementi più di destra, più nazionalisti e così via, però anche gli israeliani più di sinistra, più moderati, più possibilisti possono essere turbati da certi toni, soprattutto perché vengono da un tedesco di 80 anni e passa, cioè lo si considera un po' macchiato, senza alcuna colpa, da tutto quello che avvenne in Germania, mentre il Papa polacco ne era stato completamente immune. E anzi veniva ricordato per l'aiuto fattivo dato agli ebrei. È una discussione di sensibilità. Detto questo, proprio perché il clima è, non dico ostile, ma insomma un po' freddino, le voci che parlano contro questo Papa o che lo esortano con rudezza sono particolarmente sentite. Un minuto, Filippo. Beh, Carlo Wojtyła incontrò allo Yad Vashem una ex ragazza che aveva portato sulle spalle il giorno della liberazione di Auschwitz per 8 chilometri. Benedetto XVI questo vissuto non ce l'ha. Proprio bisogna ricordare che quando il Papa fu eletto, Die Welt titolò "Noi siamo il Papa", come quasi i Queen Paps, quasi per dire: ok, abbiamo sbagliato, siamo dichiarati colpevoli, abbiamo pagato, adesso andiamo avanti. Questo è un po' difficile da far comprendere alla società israeliana, che è democratica, dove un 60%, diciamo così, pratica la religione un po' come amalgama di tipo sociologico, il 20% è marcatamente laico, e questo 80% fa un po' difficoltà a credere che un tedesco possa essere politicamente, diciamo, innocente, almeno di quella generazione. Allora, Filippo è in partenza, noi invece restiamo qui a seguire questo viaggio. Maria Grazia, telegraficamente una tua visione all'inizio di questa importante spedizione, qual è? Cosa aspetti di vedere o temi di vedere? No, io auguro a questo Papa e quindi a tutti noi che non faccia errori, anche gli errori della stanchezza, del piccolissimo incidente, e auguro a tutti quelli che seguono, soprattutto in Israele, di non aggravare qualunque piccolissimo passo falso, perché sarebbe un diminuire questa grande esperienza. Grazie a Maria Grazia Enardo e Filippo Giacomo. Chiudiamo rapidamente, che è veramente tardi. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì dopo le 4 qui da Radio 24. Buon weekend. Yeah.